L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata che ci porta dall'Italia all'estero. Parleremo infatti di ambiti completamente diversi, ma che in comune hanno l'internazionalizzazione, per così dire, di competenze e attenzioni italiane. Per la prima esperienza andiamo in Russia, dove prosegue con successo il servizio di car sharing della città di Mosca, realizzato grazie a un investimento di 800 milioni di rubli, circa 10 milioni di euro, del fondo General Invest dell'imprenditore italiano Vincenzo Trani, che l'ha plasmato, per così dire, sul modello di quello di Milano. Per la mobilità c'è molta attenzione in Russia, in particolare a Mosca, che è una città, come tutti hanno sentito dire almeno una volta, che ha un traffico congestionato. Strano ma vero, viste le condizioni climatiche, si sono moltiplicati i moscoviti che usano la bicicletta, infatti c'è anche un servizio di bike sharing e una rete di piste ciclabili molto utili per girare il centro. È in continua espansione la rete di trasporti urbani di superficie e sotterranea, con una serie di facilitazioni per i biglietti dei mezzi pubblici. E poi, come dicevamo, è stato introdotto un anno circa fa, qualcosa di più, il car sharing di Delimobil, questo è il nome della società. Queste altre misure hanno fatto sì, tra l'altro, che lo scorso anno l'International Transport Forum, che è costituito da 57 paesi, attribuisse proprio a Mosca il primo premio per i miglioramenti che era stata capace di introdurre nei trasporti. A questo punto torniamo al car sharing e ne parliamo con Vincenzo Trani, che è anche il presidente del consiglio di amministrazione di Delimobil. Gli abbiamo chiesto come vanno le cose e che cosa progetta per il futuro. Mosca è stato un progetto che è partito a settembre 2015, quindi abbiamo anche qualche mese in più di un annetto, sono quasi un anno e mezzo, e è stato un progetto veramente molto interessante e che ha dato ottime soddisfazioni sia al comune di Mosca che chiaramente a noi. I dati sono molto interessanti perché siamo partiti da un parco auto abbastanza ridotto di 100 auto e siamo arrivati a un parco auto attuale di 1100 auto. Il numero di clienti interessati che usano quotidianamente Delimobil ha raggiunto le 200.000 unità e il numero di noleggi giornalieri ha raggiunto praticamente i 1100-1200 noleggi di media giornalieri. Questo che cosa significa? Significa che per statistica se 1100 persone al giorno noleggiano queste vetture, significa che sono rimaste a casa moltissime autovetture che non sono più parcheggiate lungo le strade della città, moltissime autovetture non sono più usate, quindi rimangono parcheggiate nei garage, e quindi c'è meno traffico, una riduzione di media di 10 a 1, è l'effetto che il car sharing consente anche da questo punto di vista, diciamo, statistico europeo. E di conseguenza per un'auto di car sharing ce ne sono 10 che rimangono normalmente nel garage di casa. Quindi l'effetto è piuttosto importante anche sulla logica dell'ecologia, no? Quindi sull'ottimizzazione degli scarichi e sull'ottimizzazione degli spazi interni alla città. Il sindaco ha espresso una forte soddisfazione per quello che è quelli che sono stati i risultati di quest'anno e mezzo, e chiaramente ha chiesto un ulteriore impegno, per cui abbiamo in programma di aumentare il numero di auto in città, raggiungendo nei prossimi tre anni un parco auto di 2500 auto. Quindi in effetti questo è il piano che avremo a breve su Mosca. Che tipo di auto sono? Sono delle auto di produzione prodotte in Russia, sono dei modelli prodotto nazionale, sono modello Hyundai, però un modello particolare che viene usato per il car sharing e per i taxi, che si chiama Solaris, e praticamente è una macchina 5 porte familiare, comoda. Ecco, la logica è quella di consentire alla famiglia di spostarsi. La famiglia è al centro della logica di sviluppo della nuova Russia, e di conseguenza l'idea di consentire lo spostamento non al singolo ma a un gruppo di persone, e quindi alla famiglia, era un po', diciamo, al centro del nostro focus nel momento in cui abbiamo scelto quale autovettura inserire. Per quanto riguarda lo sviluppo, noi non pensiamo di fermarci solamente alla città di Mosca. Siamo molto interessati a avviare attività in altre città e siamo partiti lo scorso mese a San Pietroburgo con lo stesso progetto e con le stesse autovetture. All'inaugurazione era presente il presidente della regione di San Pietroburgo e il console italiano. Abbiamo lanciato il progetto effettivamente da poco e abbiamo già oggi un numero abbastanza interessante di iscritti, parliamo di quasi 8.000 iscritti. Del car sharing se ne parla tanto in Russia, non solo a Mosca, e di conseguenza noi riceviamo costantemente lettere dai vari governi delle regioni in Russia che ci chiedono di considerare altre città per estenderci ulteriormente. San Pietroburgo era la prima città dove ovviamente insomma aveva senso muoversi e ci siamo mossi, abbiamo avuto ovviamente necessità di un po' di tempo in più per pianificare, ma presto ne apriremo altre. Nel giro dei prossimi 3 anni abbiamo in piano di aprire 6 città. Il progetto di sviluppo prevede un progetto di crescita in franchising, per cui noi daremo opportunità agli imprenditori locali di lavorare con il nostro brand, con le nostre autovetture, con il nostro software, ma la gestione sarà operata da un operatore in franchising locale. Questo ci consente di crescere più velocemente e ci consente in effetti di ottimizzare meglio quelle che sono le risorse e anche le expertise locali, aiutando a crescere anche diciamo la struttura imprenditoriale locale. Ecco, quindi questa era un po' l'idea. Questo è qualcosa di nuovo sul mercato, perché al momento non ci sono società di car sharing al mondo che usano la logica del franchising. Devo dire che il progetto è molto interessante anche per un'altra ragione, perché alla fine le categorie di utilizzatori finali di queste autovetture per gran parte dei casi, cioè gran parte molto spesso, sono poi alla fine piccoli imprenditori che usano l'autovettura per lavorare, mentre l'impiegato normalmente o il dipendente pubblico o privato raggiunge il posto di lavoro e ritorna a casa, quindi usa l'autovettura poco perché la usa 2 volte al giorno nella migliore delle ipotesi. Il piccolo imprenditore usa l'autovettura continuamente perché ha bisogno di raggiungere un cliente, di raggiungere il punto vendita e soprattutto se è veramente un piccolo imprenditore ha bisogno del suo denaro per investirlo nell'impresa e di conseguenza non è disponibile a comprare un'autovettura, o comunque se l'ha già comprata cerca di limitarne i costi. E quindi in questa logica questo chiaramente è interessante, è una forma un po' di leasing al minuto, no? se vogliamo vederla in questa maniera. È molto interessante, e poi chiudiamo, è molto interessante anche l'idea che voi avete sviluppato delle famiglie, che in Italia appunto non è, pur essendo, no, l'Italia il modello, il car sharing di Milano all'origine di tutto questo vostro ragionamento su Mosca, è completamente diverso. Per Milano è una questione di single, di auto piccole, di posteggi più facili, e invece avere ragionato in termini russi di necessità ovviamente ha cambiato poi anche il tipo di auto che utilizzate. Sì, senza dubbio. In effetti, da un'analisi sociologica che avevamo avviato prima di lanciare il progetto, è venuto fuori che il periodo più interessante di utilizzo, quindi quello più elevato di utilizzo, è il weekend. Nel weekend normalmente le nostre auto sono utilizzate per raggiungere i centri commerciali che sono al di fuori della città. Chi normalmente usa la propria auto raggiunge il centro commerciale, parcheggia lì e poi è tutta la giornata all'interno del centro commerciale ed esce poi la sera, perché all'interno dei grandi centri commerciali ci sono cinema, ci sono supermercati, ci sono negozi di abbigliamento, gallerie commerciali, ristoranti. Fuori c'è meno 20, quindi. E fuori c'è meno 20, chiaramente sì. Non è che dici non gli piace la natura, ecco, magari non è fruibile tutto l'anno. E non ci sono alternative, di conseguenza c'è bisogno di raggiungere il centro commerciale. e chi non ha l'auto, chi in effetti non vuole usarla, ha bisogno di raggiungere il centro commerciale non certo da solo perché vuole essere in famiglia. Ma se ci pensa oltre alla logica della famiglia, sa, il piccolo imprenditore molto spesso ha bisogno durante la settimana di portare con sé delle merci, degli strumenti, e l'autovettura di piccole dimensioni non glielo consente. Questo è anche un po' il problema, per cui la logica è stata questa, un focus fatto su, a fronte, dopo un'analisi sociologica realizzata sul, su quello che è il, sono le esigenze di questo mercato, che è un mercato simile a quello occidentale ma comunque che ha le sue peculiarità, e sulla base di questo chiaramente abbiamo scelto una certa strategia di sviluppo, e questa è un po' la strategia che stiamo continuando ad usare. Abbiamo a breve intenzione di inserire il settore elettrico, quindi stiamo ragionando su quale tipo di autovettura prendere per poterla testare sulla popolazione l'utilizzo effettivo dell'efficienza di un'auto elettrica, considerato il clima e considerate le varie difficoltà che ci sono a queste latitudini, e stiamo per concludere un accordo con l'Enel Energo, che è la società elettrica di gestione della rete elettrica di San Pietroburgo, per fare avviare questo progetto in compartecipazione. Al momento stiamo discutendo i dettagli contrattuali, per cui non escludiamo che a brevissimo possiamo portare avanti qualcosa di un po' più interessante dal punto di vista ecologico. Insomma, si può fare, o meglio, si può cambiare rotta nella mobilità anche in Russia e grazie all'Italia. Abbiamo ascoltato Vincenzo Trani, presidente del consiglio di amministrazione di Delimobil, azienda di car sharing a Mosca. Tra poco cambiamo continente. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto dal lunedì al venerdì, e siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Usain Bolt si mette in scia. Attenzione che spinge fino in fondo. Ha il record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma la stoccata. Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui, su Radio 24. L'altro pianeta. Ancora un buon pomeriggio da Laura Bettini. Continuiamo a parlare di italiani all'estero con progetti di tutela dell'ambiente, in questo caso anche e soprattutto delle popolazioni indigene. Abbiamo conosciuto Source International grazie alla fiera Fa la cosa giusta, che si è svolta come ogni anno a Milano. È la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Source International è una organizzazione non governativa che collabora con comunità che soffrono per casi di inquinamento ambientale e danni alla salute, diciamo pure che sono un po' degli avvocati delle popolazioni indigene, che forniscono aiuto e consulenza scientifica e legale. Il nostro interlocutore è stata Laura Grossi, che è Project Manager presso Source International. Siamo un'organizzazione non governativa italiana, ma lavoriamo poi a livello internazionale. La nostra principale obiettivo è quello di cambiare le relazioni tra comunità, imprese e governo in modo tale da cercare di riempire quel vuoto di informazioni e di conoscenze che le comunità hanno rispetto a un governo e a un'impresa. Noi quello che facciamo è supportare quindi queste comunità che si trovano in situazioni di inquinamento ambientale e violazione dei diritti umani legate alle attività di estrazione mineraria e petrolifera. Ultimamente ci stiamo occupando anche di attività industriali a grande scala come le monocoltivazioni, e quello che facciamo è in parte formare le popolazioni locali su come potersi difendere da queste imprese, perché sono senza voce queste persone, e dall'altro lato quello che facciamo è cercare delle evidenze, delle prove che queste imprese stiano contaminando le acque principalmente, l'aria, il suolo, il medio ambiente, e valutare anche, fare un'incidenza degli abusi sui diritti umani. Tutto questo al fine di cercare di denunciare l'impresa e ottenere una sorta di giustizia per queste comunità, e quando si può anche un indennizzo, un risarcimento per queste comunità, che poi possono avere delle risorse per potersi quantomeno curare o decidere se abbandonare un posto che ormai non è più bonificato. Quindi si può più bonificare. Degli avvocati, diciamo, per le comunità. Sì, cerchiamo di dare voce a loro, cercando di supportarli in questi lunghi anni di difesa e di lotta per riavere il possesso delle proprie risorse naturali, perché perdono l'accesso all'acqua potabile, che quindi è un diritto fondamentale, e quindi perdono accesso e non viene rispettato il diritto alla salute. Insomma, è una situazione, infatti volevo dire, così pesanti, diffusa grandi. Poi voi in che aree operate, per capire insomma di cosa stiamo parlando, ed è così diffuso, cioè i governi lasciano veramente alle compagnie mano libera? Sì, è così, soprattutto dove lavoriamo noi, lavoriamo spesso in Centro e Latino America, quindi sono governi spesso corrotti, dove le norme ambientali vengono tranquillamente violate e tra l'altro sono poco conservative, quindi se noi abbiamo dei limiti di emissione di acque di scarico nei fiumi, nei bacini idrici abbastanza restrittive, loro ce l'hanno al contrario, molto lasciano mano libera praticamente a chi inquina e alle imprese. Latino America, soprattutto il Perù, sembra un groviera, noi ci siamo passati volando sopra con l'aereo, è a macchia di leopardo, trovi queste miniere a cielo aperto e un paesaggio. La prima volta che sono arrivata a Cerro de Pasco, questa città a 4500 metri di altezza, ha una voragine, un cratere che sembra una porta verso l'inferno. E cosa si estrae? Lì si estrae zinco, piombo, rame, dagli anni dei primi del Novecento, per cui ora le popolazioni, tra l'altro 100% della popolazione dovrebbe essere ricoverata d'urgenza, perché hanno livelli di piombo nel sangue altissimi, oltre i limiti stabiliti dalla OMS. E tra l'altro siamo tornati di nuovo quest'estate per una fase di monitoraggio, stiamo monitorando la qualità ambientale e stiamo valutando l'esposizione della popolazione a questi metalli pesanti, e quello che faremo è denunciare il caso davanti ai relatori speciali delle Nazioni Unite, in modo tale che possano far loro stessi pressione verso il governo e l'impresa per cambiare una situazione che è davvero frustrante per la popolazione locale. Certo. Per poter coprire, diciamo, tutto questo arco di ricerche che fate, immagino che quindi la vostra squadra sia composta di esperti di vari tipi, perché ci vorrà chi è esperto in medicina, chi in aspetto legale dei vari paesi, no? E così via. Sono tutte competenze che riunite all'interno di Source vi avvalete di personale locale magari? Sì, dipendendo dai progetti abbiamo dei consulenti e abbiamo i nostri collaboratori, diciamo, fedeli, abbiamo un giornalista un antropologo, un sociologo e dipendendo appunto dai progetti abbiamo i nostri appoggi professionali, ecco. Quindi abbiamo detto il Perù, altri paesi in cui siete, diciamo, avanti nella... Messico, ci sono parecchie miniere di oro e argento, abbiamo lavorato anche come formazione di promotori sociali, che sono questi leader comunitari che noi formiamo su tematiche come appunto inquinamento ambientale, diritti umani e monitoraggio ambientale, quindi loro a loro volta proseguendo con un modello sostenibile di progetto, quello che fanno è trasferire l'informazione al resto della comunità in modo tale che loro stessi siano vigilanti continui e delle loro risorse, del loro ambiente, in modo tale che loro stessi possano a loro volta denunciare le imprese e alzare la voce contro, diciamo, le istituzioni locali. E in Italia fate attività di formazione con le scuole, quindi diciamo che c'è una preparazione di prossimi associati, diciamo magari di source, che capiscano l'importanza di questo tipo di lavoro e che capiscano l'importanza di avere attenzione per il pianeta, no, non solo in Italia ma ovunque. Sì, facciamo parecchi progetti, abbiamo qualcosa a livello europeo di progettazione con altre scuole sui cambiamenti climatici, sulla protezione e conservazione del suolo, sui laboratori dei minerali e delle miniere e sulla sovranità alimentare, per cui tra l'altro gli studenti sono molto interessati alle tematiche, perché poi sempre in mano abbiamo apparati elettronici che sono costituiti da minerali, per cui è una cosa che si può vedere costantemente, anche se poi i mass media non ne parlano così apertamente, per cui è un'informazione aggiuntiva che vedo che fa piacere agli studenti avere. La Source nasce a Calci per qualche motivo specifico? C'era un'attività lì oppure semplicemente perché il gruppo di persone che ha dato vita... Il direttore è Flaviano Bianchini, è di Calci. Ok, quindi è un caso. Calci, sì. In Italia non avete mai seguito casi specifici, soprattutto sull'estero avete lavorato? Principalmente all'estero, in Italia abbiamo seguito la situazione in Basilicata, che è appunto il Texas europeo, e l'anno scorso l'area ex Falck a Novate Mezzola per l'inquinamento da cromo esavalente. E lì continuate o per ora siete fermi? Per ora stiamo aspettando il riscontro dell'organizzazione locale che ci ha chiesto lo studio, il loro processo in tribunale sta andando avanti e speriamo possano ottenere giustizia anche loro dalla situazione. Questo mi fa capire che quindi voi intervenite su richiesta delle popolazioni locali, qualunque esse siano? Sì, dalle organizzazioni locali che sono gli intermediari con le comunità. Quindi non è una vostra scelta andare in Messico, per dire? No, sono loro che ci contattano, che hanno bisogno di uno studio ambientale e di diritti umani. Questo significa che avete un nome molto bello, che in giro per il mondo si sa che esiste Source, che prende a cuore e segue determinati casi, ma è anche costoso seguire queste cose. Come riuscite a finanziare, diciamo, la vostra attività? E principalmente dal basso, con donazioni private, con premi che vinciamo. Abbiamo vinto a novembre il premio del Tech Award, che è un premio internazionale che danno alle imprese sociali che sono innovative, che danno un'innovazione sociale positiva all'umanità, e abbiamo vinto abbiamo una finanza che ci permette di poter procedere con i nostri progetti. In bocca al lupo allora e buon lavoro. Grazie. Abbiamo parlato con Laura Grossi di Source International. A questo punto noi ci fermiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, ancora un buon ascolto.